Buonasera, buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla è sempre Claudia Mighty Mau degli studi di Radio Città Fujiko. Abbiamo fatto una breve pausa di una settimana per andare a prendere un po' di caldo in Lituania e il caldo ci ha seguiti. Quindi in questa serata abbastanza frizzantina siamo qui in radio a parlare con notevolissimo ritardo di un gruppo di cui tutti i media hanno parlato fin dal 2016-2017 e poi soprattutto grazie al debutto finalmente con un primo album che raccoglieva tanti di quei pezzi insomma mollati lì negli anni precedenti in diverso formato, in EP, in 7 pollici eccetera eccetera, finché il 12 gennaio 2018 esce l'album di debutto che li racchiude tutti, più nuovi pezzi. Stiamo parlando dei South Londoners, Shame, che si dovrebbe scrivere con la lettera minuscola appunto per aumentare il concetto insomma negativo, denigratorio della vergogna. South Londoners tra Stockwell Road, Clapham, Brixton, Streatham, è questo il loro universo dove loro e altre band correntemente stanno emergendo, e dicevo con notevole ritardo perché infatti io ho letto per la prima volta questo nome, a volte cado dal pero, infatti nella classifica dei dischi di fine anno dove il loro album Songs of Praise si è piazzato al 31° posto in mezzo a tanti altri nomi conosciuti, quindi ha attirato appunto con notevolissimo ritardo la mia attenzione, la mia umile attenzione, e questo è il primo pezzo, Dust on Trial, Shame. Londra Sud, formate da Charlie Steen alla voce, Eddie Green e Sean Cole Smith entrambe le chitarre, Josh Finnerty al basso e Charlie Forbes alla batteria. Charlie e Eddie hanno fatto un pezzo per NPR, National Public Radio statunitense, per parlare appunto, per descrivere tutti i pezzi del loro disco. E di questo pezzo dicono che è stata una delle ultime canzoni scritte prima di iniziare la registrazione dell'album. E questo riff, appunto, che era venuto a Eddie, aveva dato appunto un tono aveva un tono molto scuro, un sonic vibe che loro non avevano mai fatto, insomma, avuto nelle loro precedenti composizioni, e loro hanno voluto approfondire questa cupezza. Infatti è l'unico pezzo che suona così, accompagnato anche dalla voce roca di Charlie Steen, che ha creato appunto poi un testo ugualmente cupo. Che senso ha parlare quando tutte le tue parole sono state dette, quando il mondo può cadere a pezzi e il suolo cola rosso, una terra di pura confusione conosciuta solo al saggio, dove la soddisfazione viene divorata, dominata e disprezzata. E appunto questo tono mi ha fatto venire in mente, perché insomma Mighty FM lavora sempre di paragoni sonici e tematici, i Proto Martyr. Band americana di Detroit, attiva dal 2008. Anche loro post-punk, ma anche più dark, più gothic, più noise, più arty. E quindi anche la similitudine, insomma, della voce così bassa e roca di Joe Casey dei Proto Martyr mi ha fatto pensare di mettere due pezzi, in realtà solo la coda del secondo pezzo del loro bel album del 2017 Relatives in Descent, partendo da questa My Children, seguita poi dalla coda di Night Blooming Cereals. Accompagnate a Proto Martyr, questa trasmissione parla di Shame e quindi ne parliamo. Una band che si è formata tra amici anche di infanzia, fino ai tempi elementari, e comunque di altri conosciuti alle superiori quando avevano tutti più o meno 17 anni, tranne il cantante Charlie Steen, più giovane, quindi sedicenne. E grazie all'amicizia del padre del batterista con il proprietario di un pub in Stockwell Road, appunto tra Clapham e Brixton, The Queen's Head, loro si trovano già nel 2014 ad avere uno spazio per provare ad essere una band. In un ambito che era quello della scena squat, che in questo posto, questo pub, era anche il quartier generale dei Fat White Family, un'altra band appunto di Peckham. E si sono trovati circondati dai personaggi più assurdi, più strani, dalle situazioni più surreali, perché era veramente un posto pieno di sorprese, e hanno ricevuto un sacco di consigli, soprattutto non fatevi mai mai mai di eroina. E hanno anche ricevuto un sacco di aiuto, infatti c'è un articolo intervista di Noisy Vice dove dice che appunto i Shame sono stati fortunati in modo assolutamente ridicolo, perché quando tante band fanno fatica anche a trovare i soldi per affittare una sala prove eccetera eccetera, loro hanno avuto gente che se l'è presa a cuore, gli ha regalato delle batterie, hanno avuto appunto questo spazio gratis per tanto tempo, consigli preziosi eccetera, che insomma hanno fatto risparmiare soprattutto soldi e far arrivare appunto ad una consapevolezza e anche una insomma bravura anche a livello pratico, quindi ad essere una band e a scrivere pezzi. Infatti quattro pezzi che poi sono finiti insomma nella loro versione completa, oppure nella loro insomma struttura, nella loro ossatura originale, sono stati proprio scritti nel 2014 in questo spazio The Queen's Head, che poi nel 2015, per l'opera di gentrification che continua a invadere Londra andando sempre più in periferia, ha trasformato questo The Queen's Head in un gastropub, ovvero in questi posti molto fighetti, birra artigianale, eccetera, eccetera. Siamo arrivati al secondo pezzo di Songs of Praise, si chiama Concrete. Concrete è stata poi la prima uscita ufficiale per la loro etichetta, che non abbiamo detto è la americana di Bloomington, Indiana, ma con anche una sede a Austin, giustamente sede South by Southwest, della appunto Dead Oceans. E trovo appunto curioso che una band inglese pubblichi il primo disco per una etichetta americana. E di questa canzone Charlie e Eddie dicono: la prima volta che l'abbiamo suonata è stato al Festival The Great Escape in Brighton, che è stata appunto la situazione del 2017, maggio 2017, che li ha fatti un po' esplodere. E c'è passato tanto tempo dal primo riff a, insomma, all'elaborazione dell'idea e alla costruzione della canzone, che appunto ha preso forma da questo call and response, da queste frasi con due membri della band che dicono, insomma, metà verso a testa, call and response. E il tema è l'idea di essere intrappolati in una relazione, quasi come, insomma, parlare da soli, parlare a se stessi. Perché poi alla fine queste canzoni parlano, questo disco parla anche molto dell'uscita dall'adolescenza, del diventare un po' più grandi, di avere appunto le prime relazioni serie, e anche un cosiddetto social commentary sulla situazione politico-sociale del loro paese. Come spesso accade, le trasmissioni Made FM mi danno l'occasione di esplorare un po' la musica contemporanea, la scena contemporanea, che appunto magari conosco ma non ho mai ascoltato bene, approfondito. E magari però, invece di mettere band proprio della stessa scena sudlondinese, di questi nomi che ricorrono sempre anche nelle interviste, Sorry, Dead Pretties, ho deciso appunto di contornare i pezzi dei Shame con pezzi di band inglesi e americane, sempre questa scena post-punk più o meno cattivella, più o meno incazzata. E anche uno degli album che si è piazzato, adesso non ricordo, ma è in posizione piuttosto alta nelle medie delle recensioni, delle liste di fine anno, appunto il disco degli Idols, Joy as an Act of Resistance. Stiamo ascoltando Danny Nedelko, uno dei singoli tratti da questo disco. addirittura all'ottavo posto nella media delle classifiche delle classifiche. Anche loro britannici, ma di Bristol. E se Shame si dovrebbe scrivere con la S minuscola, Idols si dovrebbe scrivere tutto maiuscolo, e c'è anche questo gioco di parole del suono che poi fa tutta la pronuncia di questa parola, che idless, come sta scritto, significherebbe inerti, insomma in ozio, proprio inattivi, mentre appunto la pronuncia Idols, idoli. Ecco, potevamo mettere appunto altri gruppi della stessa scena, Got Girl, HMLTD, ma siccome appunto il debutto dei Shame ancora anticipato quello di queste band, noi aspettiamo e magari faremo delle trasmissioni su queste band prossimamente. Ma siamo tornati appunto a Songs of Praise con One Rizla. Si può sentire, non è solo un punk post-punk un po' incazzato, ma diciamo che ci sono i pezzi di questo disco che coprono un po' tutto lo spettro della classica musica alternativa britannica. E questo pezzo è molto più rilassato, molto più lento, molto più melodico, e è la più vecchia canzone, quindi scritta proprio per prima, nel 2014, tra quelle del disco, e anche edita in maniera autoprodotta proprio lo stesso 2014 in un EP di cui non ho trovato tracce, che si chiamava Gone Feasting, di cui questa One Rizla era il primo pezzo. Infatti il suono di questa canzone è più jungly, che era poi l'aggettivo dello stile chitarristico del grandissimo Johnny Marr. Spesso viene nominato il testo di questo pezzo, che dice le mie unghie non hanno la manicure, la mia voce non è la migliore che hai mai sentito, e tu puoi scegliere di odiare le mie parole, ma me ne frega un cazzo, i calzini sono vecchi e le scarpe sono rotte, i polmoni sono stanchi perché sono pieni di fumo, il portafoglio è pieno, no, sono al verde, ma respiro ancora. Non sono una gran bellezza e non sono neanche tanto bello da sentire, da ascoltare, ma se tu pensi che io ti amo, ti sei fatto proprio l'idea sbagliata. E questo testo è stato scritto da Charlie su un libro di scuola. E è come un un grido di appunto, mancanza di speranza, di frustrazione che loro negli anni dell'adolescenza, che loro dicono in parte sono stati tragici, hanno provato e hanno esperito, poi hanno continuato a suonare questa canzone a ogni live che hanno fatto, e all'ultimo insomma demo prima di registrare l'album è venuta fuori proprio esattamente come la volevano e la forma attuale. E quindi, parlando di Jungly, come contributo esterno abbiamo voluto mettere i Rolling Blackouts Coastal Fever, band australiana formatasi a Melbourne nel 2013, che non sono sicura di aver visto, forse erano ad un festival ma non li ho potuti vedere per questione di sovrapposizione. E poi comunque tra questi gruppi che ascoltiamo a corredo degli Shame ci sono tanti gruppi, tanti dischi del 2018 che sono stati molto molto apprezzati dalla critica, compreso questo. Che nella classifica delle classifiche si è piazzato al 29esimo posto, quindi due posti avanti agli Shame. Poi una curiosità riguarda il titolo dell'album, Songs of Praise, ovvero canzoni di lode, quindi inni. È praticamente il titolo di uno dei più vecchi show radiofonici o televisivi, non ho capito, della BBC, della domenica pomeriggio, ovvero la trasmissione a contenuto religioso, che è proprio un'istituzione addirittura approvata dalla monarchia. E quindi anche la scelta di questo titolo sottolinea anche il loro umorismo, che comunque pervade tutto il disco. Ma non abbiamo detto che l'album dei Rolling Blackouts Coastal Fever si chiama Hope Downs 2018 e il pezzo che stiamo ascoltando è Talking Straight. Dopo questo EP fantasma autoprodotto nel 2014, nel 2016 entrano nell'etichetta, o perlomeno pubblicano un paio di 7 pollici per l'etichetta F-Nord, F-Nord Communications, di cui fa parte anche il musicista elettronico Happa, che ritornerà poi in seguito perché è stato diciamo convocato per una produzione aggiuntiva del primo pezzo dell'album, Dust on Trial, e pubblica appunto la prima release per questa etichetta 7 pollici. Era ecco, This Is How It Starts, la A-side era questa, The Leak. Quasi non sembra un disco del 2018 se non appunto a conferma di questa nuova emergente scena di guitar bands e anche la loro politicità quasi li fa sembrare un gruppo dell'era thatcheriana, poi si sono molto espressi e lo sentiremo anche più là nella trasmissione, e anche supportando apertamente Corbyn, leader laburista. Anche perché insomma sono cresciuti a botte di grandi appunto classici, non degli Oasis e dei Blur, come che ne so, già sarebbero insomma un po' datati anche per i loro 20 anni, ma gruppi molto molto molto più vecchi. Abbiamo anche pubblicato nell'evento Facebook questa intervista con una radio canadese, una video intervista dove parlano a loro appunto delle influenze musicali. Dai Television a ovviamente i Fall di Marky Smith, dai Jam ai Kinks, agli Stooges, a Beck, a Stiff Little Fingers, ma anche Rodriguez. Invece cosa dire di questo pezzo? Loro lo definiscono la nostra primo dono al mondo, anche dal punto di vista di video, perché appunto il primo video degli Shame era di questa The Leak, che era la loro l'esibizione live di questo pezzo nella loro sala prova, i Dropout Studios, un video girato da e ritorna Mika Levi, ovvero ex Mikachu and the Shapes. Infatti lo stile di questa canzone è stato paragonato ai Fall. E dicono, il nome del pezzo viene da una volta in cui dopo una lunga notte nel nostro studio un membro della band che non nomineremo entrò in uno strano stato di psicosi indotta dalle droghe, e per un buon 10 minuti sembrava che riuscisse solo a pronunciare queste parole: the putiri putiri lick. And that's how it ends. Sì, quel modo di cantare ricorda Marky Smith, ma appunto volendo rimanere in una scena soprattutto anglosassone contemporanea, a me è venuto in mente King Krul. Ovvero Archie Ivan Marshall. E ci ascoltiamo dal suo fortunatissimo The Use del 2017, Emergency Blimp. Ma adesso stavo scorrendo i miei appunti, i miei scarabocchi fatti durante l'ascolto dell'album. Per esempio One Rizla mi ha fatto pensare anche Gang of Four, che a parte ritornano anche musicalmente, ma a livello di contenuto, quando appunto lui dice If you think I love you, you've got the wrong idea, mi ha fatto pensare a Damaged Goods, Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. God is in the soul. Marshall, che spesso ha parlato anche delle sue condizioni mentali, aver avuto appunto dei problemi e aver sofferto di depressione e insonnia, e questo mi rimanda anche ad un tema che è stato molto molto molto spesso espresso da Charlie Steen nelle interviste al cantante di Shame, soprattutto il fatto di come i mesi e mesi di tour estenuanti lo hanno veramente, hanno peggiorato il suo stato mentale, provocandogli, a parte malesseri fisici, appunto facendolo soffrire di deprivazione del sonno, tanti altri malesseri, e quindi anche un desiderio di parlare dei problemi mentali in una società in cui una persona su quattro soffre di depressione. E sono tante le cose di cui i Shame vogliono parlare e che li differenziano un po' dalle classiche rock band, dalle lead band, dalle band appunto di maschi carichi di testosterone, ma anche appunto a band tipo come gli Oasis, dove appunto si dice che Noel Gallagher prendeva in giro lo stato di ansia del proprio bassista, ad esempio. E ci sono appunto diverse questioni che loro hanno a cuore, che mostrano come loro siano comunque di una nuova generazione, avendo adesso 20-21 anni. Il pezzo che stiamo ascoltando è Tasteless, un altro dei pezzi pubblicati via 7 pollici nell'aprile del 2017, sempre per la F-Nord. E di questo pezzo loro dicono che è un pezzo che insieme a un'altra traccia dell'album che ascolteremo dopo seguono la dinamica alla Pixies di Esplosione e Calma, Loud and Quiet. E il testo di questa canzone è stato come un collage da appunto frasi varie prese da vari quaderni del cantante, proprio fatto un lavoro di patchwork di varie frasi in varie pagine. Però il tema generale del pezzo parla dell'indifferenza nella loro società e ripete per 16 volte: mi piaci di più quando non ti vedo. Ma anche The Leak era praticamente uno stream of consciousness di Charlie Steen. Ed ecco una delle canzoni del cuore del 2018, che erano sempre un po' collegati al lato un po' più dark, ispirato dal primo pezzo del disco di Shame. E anche dal timbro di voce roca, sempre di più dal vivo, dei Preoccupations. Ex Viet Cong, su cui noi facemmo una trasmissione per il loro album omonimo. Abbiamo visti dal vivo diverse volte, diciamo che siamo adesso buoni conoscenti, sono carinissimi. Matt Flagel, Scott Daniel, Mike Wallace, bellissimo batterista da guardare. E l'ultima volta, appunto, il 10 luglio scorso all'Anabi. e questo pezzo del cuore, Disarray, tratto da New Material. Video che avevamo postato nell'evento dedicato a questa trasmissione era un'intervista fatta subito dopo il loro concerto sotto una pioggia torrenziale a Reading Festival, quindi fine agosto, dove parlavano anche appunto di essere assolutamente contro qualsiasi episodio di violenza che vedono insomma nella folla di gente che appunto si picchia guardando i loro concerti, e soprattutto di battersi affinché le ragazze si sentano sicure e non rischino di subire né molestie né violenze proprio fisiche se si vogliono stare davanti ai concerti, quindi appunto di non rischiare di venire travolte in pogo violenti. E che il discorso dell'intervista ha portato anche alla gender imbalance nei cartelloni dei festival, soprattutto quelli britannici, perché appunto dicevo il resto d'Europa è un po' più, sono più nomi femminili, e infatti anche il Guardian, ho visto, aveva fatto un articolo tempo fa in cui si toglievano dai cartelloni dei principali festival anglosassoni i nomi degli artisti maschi e rimanevano questi gruppetto sparuto di nomi femminili che così vagavano nel vuoto. Dicono: siamo parte di una generazione completamente nuova che si occupa di questioni come appunto sexual harassment durante i concerti, e il 7 pollici che conteneva Tasteless aveva una B-side che è questa delicatissima Visa Vulture. Aveva come copertina Theresa May con i denti da vampiro, perché è proprio una canzone d'amore dedicata a Theresa May quando era ancora solo ministro dell'interno e aveva operato insomma un giro di vite alle immigrazioni. E postando come sempre la videografia delle band su cui noi facciamo le trasmissioni, avevamo anche postato sotto questo video il commento che loro hanno voluto mettere su YouTube, in cui si dice: ogni giorno che passa la vacua signora May ci porta il nostro paese sempre di più nell'oscurità e nella confusione che è la Brexit, senza dubbio assicurandosi invece la miglior buonuscita, insomma il miglior contratto per sé e per i suoi compari del Partito Conservatore. E quindi vorremmo prenderci questa opportunità, questa occasione di umiliarla, umiliare la sua, distruggere la sua, insomma smascherare la sua politica così schiettamente cattiva. E questa è la canzone d'amore peggiore del mondo, Visa Vulture. E infatti dice: Theresa May, won't you let me stay? Mi farai rimanere nel paese ancora un altro giorno? E mentre mentre tutti gli altri pezzi in un modo o nell'altro pubblicati prima dell'uscita di Songs of Praise vi sono stati inclusi, questo invece non c'è entrato, e dico va anche bene, perché a livello sonico sarebbe stato insomma una rottura un po' troppo drastica rispetto agli altri pezzi. E riguardo allo stato di ansia, di affaticamento, insomma, che ha un po' messo alla prova la sua salute mentale, Charlie appunto spesso ha parlato nelle interviste di questa situazione, perché comunque dal 2017 hanno cominciato a suonare dal vivo in modo veramente instancabile, senza sosta, e infatti il 12 maggio del 2018 hanno anche suonato al Covo, ma io proprio non li conoscevo, e comunque diciamo che ero un po' concentrata quei giorni sulla data del giorno prima, ovvero su US Girls. When you wake up in your morning, head on down the river, see your soul, feel its sway, hear the world screaming, listen your name, makes it seem like nothing could hear you. E poi, siccome insomma anche loro entrano nel grande ombrello del post-punk indie rock, anche se sono un po' più teatrali, insomma, abbiamo voluto mettere un pezzo dei Out, gruppo di Montreal, Quebec, che ci è piaciuto nel loro debutto, e siccome questo nuovo album del 2018 praticamente non l'avevamo calcolato, abbiamo pensato di ascoltarlo e di scegliere un pezzo da mettere in trasmissione. Si tratta di These Three Things, tratto da Room Inside the World. You feel your shoulder tightening, so you need and sway. If you're made of stone, then turn into clay. Wash away my body, I don't need it. I start moving slowly, glisten and hurt. Now there's a note for me, I'll leave it a day. A precious secret like a bird inside a vest. Wings won't mend, so I hope never can. Riguardo all'attività instancabile di tour, come attività alla fine mentalmente e fisicamente sfibrante, estenuante, basti dire che nel 2018 hanno fatto circa 200 concerti su 365 giorni, tra cui 35 festival in 25 paesi. Ma sempre nell'intervista fatta dopo il loro concerto a Reading, hanno detto che la loro esperienza migliore, più bella, è stata appunto la partecipazione a Ipsig Rock, quindi a Castelbuono in Sicilia, dove anche lì hanno fatto cantare al pubblico quello che poi insomma è la chiusura di ogni loro concerto, quando Charlie intona quasi il mantra shame, shame, shame, that's the name. Ci raccontavano di una scena veramente molto brutta, dove si trovava un festival in Svizzera, dove il pubblico davanti forse aspettava un rapper che suonava dopo, e poi sono scoppiate delle risse tra appunto la gente che era lì sotto al palco. E poi hanno parlato che vorrebbero sviluppare una app, pur non avendo nessuna competenza specifica, di cui sono venuta a conoscenza in Australia, mi pare, era un festival in Australia, e praticamente c'è questa app che nel momento in cui una ragazza si sente insomma in difficoltà o in pericolo, usa questa app, e praticamente un membro della security che è nel recinto, nell'area del festival, si materializza e la aiuta. Ma siamo tornati a Songs of Praise con uno dei pezzi più incazzati, proprio diremmo un pezzo proprio hardcore punk. Questa canzone è il risultato di quando alle prove si presentavano solo Josh e Steen. Josh si metteva a suonare la batteria, che invece è il bassista, mentre Charlie provava a suonare il basso, e originariamente doveva avere in modo marcato dei suoni da delfino, ma invece alla fine insomma abbiamo accettato invece di lasciare solo Josh correre intorno per lo studio facendo dei versi nel microfono. E ce la facciamo raramente dal vivo, ma la facciamo a volte quando ci chiedono il bis, soprattutto quando ci si aspetta da noi di suonare per una cazzo di ora, quando ancora non abbiamo neanche un disco fuori, Love You Europe. Ma questa canzone è nonsensical, senza senso, e anche i testi quindi sono nonsense, non hanno un significato profondo, e l'abbiamo fatta solo per il nostro divertimento. E un altro contributo esterno è quello dei danesi Ice Age. Abbiamo già ascoltati e visti in un bel concerto, bello tirato a Club to Club. Avevamo ascoltato un mix tra Hooray e Take It All. Mentre questo pezzo, sempre tratto dal loro disco del 2018, Beyondless, si chiama Painkiller. Attività frenetica di tour che adesso dovrebbe essersi conclusa, perché adesso piano piano cominceranno a pensare, ma senza fretta, ad un altro disco. E Charlie appunto dice, parla dello stigma che c'è riguardo alla salute mentale nella società, e quindi dice di come appunto la mente soffre per la privazione del sonno e dello spostamento continuo, spostarsi continuamente, prendere anche 3 aerei in un giorno per arrivare ad un concerto. Dice, abbiamo suonato e suonato finché questo non ci ha proprio spezzato, e alla fine ha proprio spezzato la mia mente. Continuo continuo la sua citazione, questa deve essere l'unica professione al mondo in cui tu stai tremante in un angolo dopo che hai vomitato 12 volte in un giorno e fondamentalmente sei sull'orlo delle lacrime, e poi un promoter ti sgomita, ti dà una gomitata sul petto e ti dice: vai sul palco, scimmietta, vai sul palco. E dice: una persona su quattro soffre di ansia, è una questione insomma molto molto rilevante, e quindi cose di cui bisogna parlare. Ma la prima uscita in 7 pollici per la F-Nord nel 2016 aveva come B-side questo altro pezzo, Gold Hall. È stata la prima canzone registrata con quelli che poi sono diventati produttori dell'album e una dei quattro pezzi creati a Queen's Head Pub, registrata nel, appunto nel 2016, che parla di una storia abbastanza squallida di un vecchio danaroso che ha una storia con una ragazzina che però non può rinunciare alle Vuitton, quindi c'è appunto sempre questa duplicità, no? Tra sfruttamento sessuale di una persona più vulnerabile, perché appunto economicamente vulnerabile, o se invece si tratta di empowerment, perché molte donne dicono così: io ottengo quello che voglio con questi mezzi. Di questo disco, perché Songs of Praise ha due produttori, ovvero Dan Fout e Nathan Boddy, uno con lo pseudonimo di Bay LF, l'altro con lo pseudonimo di Office Gossip. Hanno partecipato a diverse realtà musicali come musicisti e produttori, sempre insieme con lo pseudonimo di Fout & Boddy, The Chain, che pubblicava per la RNS Records, e Wild Geese. Nathan Boddy soprattutto lavora come mixing engineer, e produttori degli scomparsi Delphic, trio synth pop a cui Mighty FM dedicò la sua 17ª puntata nel maggio del 2010, poi scomparsi. E Dan Fout ha anche un'attività come management, principalmente, insomma il nome che spicca di più è James Blake per i primi tre album, ovvero l'album omonimo Overgrown e The Color in Anything. Compra diamanti, le compra perle e lei vuole i soldi. Lei si sente sporca, sa che è sbagliato, ma si sente troppo bene in Louis Vuitton, indossando prodotti Louis Vuitton. E sì, magari ci sono dei contributi che sono meno centrati, ma si sa che Mighty FM è... insomma, fa un po' quello che gli pare, quello che c'ha voglia di suonare, e magari ci entrano sempre in modo un po' tangenziale, sempre per colpa di quell'unico pezzo così diverso, insomma, abbastanza diverso dagli altri, per quel tono veramente un po' dark, che essendo così diverso e anche essendo stato uno degli ultimi pezzi scritti, non poteva che essere il pezzo di apertura, ovvero Dustin Trio. E siccome avevamo anche accarezzato l'idea brevemente di fare una nostra puntata monografica su di loro, e anche perché poi li abbiamo visti dal vivo al Locomotive, abbiamo deciso di mettere un pezzo sempre dei britannici The KVB, proprio anche loro londinesi. Singolo tratto dal loro disco del 2018 Only Now Forever, si tratta di Above Us. All'inizio in scaletta abbiamo anche messo, insomma, dei gruppi femminili tipo Camp Cope, anche le Savages. Poi abbiamo pensato, no, una trasmissione tutta maschia dove l'unica voce femminile tra virgolette è la mia. Però diciamo è un po' falso, perché almeno nei cori c'è anche, oltre alla voce di Nicholas Wood, c'è anche quella di Cat Day. Dopo quei due singoli, quei 7 pollici pubblicati dalla F-Nord, vengono messi sotto contratto, scelgono di entrare nella Dead Ocean, dicevamo etichetta indipendente che spesso abbiamo nominato nelle nostre varie trasmissioni, fondata nel 2007, quindi proprio, insomma, recentemente, a Bloomington nell'Indiana. E tra i nomi ci sono, penso che adesso a livello, insomma, anche di risultati della stagione musicale quest'ultimo anno, il nome più grosso sia quello di Mitski, ma ci sono anche i Slow Dive, c'è anche Phoebe Bridgers, c'è anche Juliana Barwick e anche Phosphorescent, insomma tanti bei nomi, Kevin Morby per esempio. E c'è anche Alex Leahy, la australiana, che non abbiamo potuto vedere perché ha dato forfè al Primavera, Riley Walker, Japanese Breakfast, Destroyer, Place to Bury Strangers, insomma una bella famigliola. Allora, chi conosce un po' di storia della musica britannica riconoscerà in questo giro, questo riff così, in questo ritmo così un po' scalcagnato, rilassato. A me ricorda tantissimo Kinky Afro degli Happy Mondays, anche se in una recensione ho letto proprio riferimento a Stone Roses. Anche Stone Roses, sì. Canzone che elenca tutta una serie di domande. Tu aiuti mai l'impotente? Ti dedichi mai del tempo? Do you overuse the technique of not riesci ad ottenere ciò di cui hai bisogno? Sogni mai con i sognatori? Indebolisci mai i deboli? E poi c'è questa frase che appunto sottolinea anche l'umorismo e dice: tu usi in modo esagerato la tecnica del non pensare prima di parlare? In un periodo qui di ingiustizia così dilagante, come puoi non voler essere ascoltato? C'è questa cosa molto ripetuta nei testi di Charlie, questo, questione vitale dell'essere ascoltati. And do you ever worry the worried? Do you ever want to be hurt? E dicono: noi volevamo un pezzo nell'album che si potesse ballare, visto che il nostro precedente dance hit Furry Freaks, che appunto era contenuto in questo fantomatico primo EP Gone Feasting, non è, alla fine non è entrato nel disco, e quindi ci abbiamo sbattuto una camionata di baggy percussion. Infatti la scena baggy era insomma quella del Manchester dei primi anni 90. Dice: però avremmo potuto usare più cowbell. E dice: questa canzone parla della consapevolezza di tutte le persone qui nel nostro ambiente londinese, la consapevolezza nei riguardi delle questioni sociopolitiche, quest'idea generale che come società noi stiamo progredendo, eppure quando noi usciamo dalla nostra bolla che è Londra e guardiamo oltre gli amici di cui noi ci circondiamo, cosa ci troviamo? La Brexit, Donald Trump e tante altre questioni che suggeriscono che forse non stiamo progredendo ma stiamo regredendo, e ciò crea una frizione, friction. Sempre per rimanere nel panorama musicale anglosassone di band contemporanee anche che hanno fatto grandi dischi nel 2018, eccoci arrivati ai Parquet Courts. Parquet Courts, che col loro ultimo album Wide Awake si sono piazzati addirittura al 13° posto nella classifica delle classifiche. Band formatasi nel 2010 a New York City e molto prolifica, sono arrivati al 6° disco dal 2011. E al contrario, se i Shame incidono per la Dead Oceans, i Parquet Courts incidono per la Rough Trade. Incidentalmente diciamo che per la classifica annuale del 2018 della Rough Trade, i Shame hanno raggiunto appunto il primo posto, album dell'anno per Rough Trade. Nel 2017 in realtà c'è stato anche un altro 7 pollici, penso edizione limitata per le edizioni Vinyl Me Secret Releases, Single Club, che vedeva come A-side Gone Feasting, appunto il title track del fantomatico EP, seguito da Donk, che abbiamo ascoltato poc'anzi. Una serie di appunto 45 giri dal 2015 ad oggi, due pezzi ad opera di dei nomi migliori della scena indie alternativa. E invece l'ultima release dopo l'album uscito il 12 gennaio è anticipata la fine ottobre, poi 13 novembre, un EP a tiratura limitata. Mille copie in vinile, 12 pollici, color rosso scuro, dal titolo All the Hits, che contiene 4 cover, un pezzo dei Television Personalities, Love Me Tender di Elvis, che non sono riuscito a trovare, il pezzo più famoso di Harry McClintock, cantautore, poeta e cowboy, vissuto tra il 1882 e il 1957, e questa Feliz Navidad di José Feliciano, che da quando l'ho sentita ce l'ho sempre in testa. E ci sta pure, visto che abbiamo scelto come immagine, almeno per l'evento Facebook, una foto, tratta da un photoshoot della band dei Shame, vestiti come tutte, diciamo, le componenti di un presepio. C'è chi è vestito da stella cometa, chi da Madonna, chi da angelo. E questo è stato anche l'ultimo video che hanno diffuso la vigilia di Natale, per dimostrare insomma quanto sono veramente un po' cazzoni, però sono veramente dei bravi ragazzi. E arriviamo al penultimo pezzo di Songs of Praise, uno dei pezzi scritti insomma per il disco, non creati precedentemente. Bel pezzo tirato, e anche questo appunto dicono segue la Loud and Quiet Dynamic. Anche questa una canzone di domande. Cos'è che ci fa più paura? Ma ti ascoltano quando ridi o solo quando piangi? È una canzone che parla dell'imparare ad accogliere, ad accettare, a vivere bene la solitudine, qualcosa che il cantante Charlie Steen ancora fa fatica ad accettare, quasi sembra che abbia sempre il bisogno di essere circondato da persone come una forma di fuga, un po' da se stesso. Questo sempre leggendo le note lasciate per NPR. And at least you get to speak, but that's really all that counts. If something's inside of us, we gotta get it out. But what about the words that never gets a tongue? When you put your love. Mi sa che qualche recensione l'ha definita come una park life dei tempi attuali. Cioè, cos'è che temiamo di più? Le cose che ci rendono deboli o le cose che ci rendono forti? O le voci che iniziano a sussurrare solo quando siamo soli? Non dire la verità, non esprimere ciò che pensi se è considerato maleducato. Siccome in un paio di pezzi ci sono dei toni un po' più morbidi, abbiamo anticipato insomma un po' anche il tono musicale del pezzo successivo in scaletta, che è anche quello conclusivo dell'album, quindi la trasmissione con un pezzo del gruppo che ci è venuto in mente, che ci si avvicina di più insomma per noi a questo suono, ovvero The Horrors, Paris But One e compagni, e questo è un pezzo del loro V, ovvero quinto album del 2017, World Below. Sebbene la musica degli Horrors veda la presenza pesante delle tastiere, nel disco dei Shame non ce n'è ombra. C'è da dire? Non so, c'è da dire che contemporaneamente all'uscita del disco, ovvero sono tantissime versioni di questo album Songs of Praise, una delle quali conteneva un bonus CD con 4 pezzi dal vivo, 2 registrati in uno studio di registrazione di East London e un altro un'esibizione live sempre in un pub off the cuff, pub e live venue sempre della loro zona tra Streatham e Brixton. Ma nel 2017, appunto, avevo scritto, prima ancora di fare un disco, escono dei live EP, ma questo era a cura di un'etichetta che si chiama Dijon, per un live appunto fatto a Dijon nel febbraio 2017 in cassetta. Band che, se si guardano le foto, i video eccetera, può dare l'idea, no, di essere il gruppo punk, post-punk, un po' incazzato, con il cantante sempre a torso nudo, ma anche questa cosa è molto molto particolare, perché dice: io ho cominciato a spogliarmi, a togliermi la maglietta, a cantare a torso nudo quando abbiamo cominciato a fare i concerti, perché era l'unica situazione, una situazione in cui mi sento libero da ogni giudizio. E proprio quello che noi vogliamo è che l'esperienza di vederci dal vivo un concerto degli Shame sia una judgment free zone. Well, there she swings, before the band. questo il pezzo conclusivo, il più lungo, quasi 7 minuti. Era appunto questo pezzo che mi ha fatto venire in mente un po' più di morbidezza, diciamo, quindi gli horrors, più melodia, ma anche molto, infatti è stato nominato in qualche recensione anche Echo and the Bunnymen. Contenuto della canzone, una storia di una di un amore non corrisposto, di una morte, di un suicidio di una ragazza. È diciamo l'unica ballata nel disco e che quindi poteva essere solo il pezzo di chiusura. E quindi una storia d'amore e morte, un po' sulla falsa riga di Where the Wild Roses Grow di Nick Cave, duetto con Kylie Minogue. Anche questa, almeno la struttura, l'ossatura di questa canzone è stata scritta sempre nel 2014 negli spazi del Queen's Head Pub, dopo appunto aver sentito questa storia così triste, e pensavano di non inserirla nel disco, quando invece i produttori Dan e Nathan hanno proprio insistito perché venisse messa nel disco. Addirittura si dice che uno dei due si è messo a piangere sentendola. È stato proprio appunto questa parte del ritornello che mi ha ricordato tantissimo gli horrors. E si dice, non si sa, non sapremo mai se questa storia è vera o no. Ma la storia parla di un adolescente che si innamora di una ragazza che poi si suicida. E lui ancora sente fortissimo questo amore anche dopo la morte. E vi risparmio la lettura di brani delle recensioni, basti dire che per Metascore questo disco ha ottenuto una media di 83 su 100, meritandosi, insomma, prendendosi dei 10 da Musical Image, The Y Magazine, L'Enemy, Record Collector, 2.9 da The Land of Best Fit, Clash Music, tanti 8 tra cui Q Magazine, Mojo e Uncut, che danno sempre lo stesso voto, 7.5 da Pitchfork e da The 4-5, 6.7 Austin Chronicle, dici ma che rilevanza ha? È perché magari appunto la Dead Ocean ha una sede anche lì. E poi invece 2 insufficienze, ovvero 2.5 da Tiny Mixtapes e Drowning Sound. Drowning Sound scrive, probabilmente con questo disco, recensione quindi uscita all'uscita del disco, quindi all'inizio di insomma, gennaio 2018, probabilmente questo disco non gli guadagnerà altri fan al di là della fanbase che già hanno, ma mi sa che si sono sbagliati di grosso. Insomma, abbiamo detto tutto quello che potevamo, anche questa trasmissione preparata in poco tempo è anche più breve del solito, ma appunto si confà alla rapidità, alla sinteticità, alla velocità di questo disco. E niente, prossima settimana, chissà, ciao, da Claudia Mighty Mau con i Shame.